GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Chiuso per un'ora questa mattina l'aeroporto di Ronchi a causa dello sversamento di carburante da un aereo della Ryanair diretto a Catania. Operatività ripristinata, voli regolari. La Pagnaco Biometano non si arrende dopo la notizia dell'archiviazione definitiva da parte della regione del procedimento relativo all'impianto di biometano di Pagnaco. Dalla società consortile che raggruppa alcuni allevatori della zona filtra la ferma volontà di ripresentare il progetto così com'è. Dalla scorsa notte è tornata a soffiare forte la bora, soprattutto sulla fascia costiera e a Trieste, dove le raffiche hanno toccato i 110 km all'ora. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non si registrano finora gravi danni. Analoga situazione nel Goriziano, sentiremo le previsioni dell'ARPA per Natale e Santo Stefano. Rubava materiale per l'edilizia e utensili custoditi nel magazzino dell'azienda dove lavorava per rivenderli poi sulle piattaforme online. A scoprire e denunciare un 58enne della Bassa Friulana sono stati i carabinieri della stazione di Latisana. La polizia locale di Trieste ha sequestrato oltre 15 kg di prodotti ittici considerati non idonei alla vendita. Durante l'ispezione in un esercizio commerciale gli agenti hanno rilevato violazioni in materia di sicurezza alimentare. Il 24 dicembre tradizionalmente la giornata in cui si completano gli acquisti non solo per i ritardatari del regalo da mettere sotto l'albero in attesa della mezzanotte, ma anche dei prodotti alimentari per la preparazione del cenone della vigilia e il pranzo di Natale tra le mura domestiche. Il periodo delle feste sta registrando negli ultimi anni un costante incremento dei turisti a Trieste. Siamo andati a verificare la situazione delle presenze negli alberghi che a Capodanno registreranno il tutto esaurito. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Buongiorno e buona vigilia di Natale da Giorgio Bearz e Lara Zani, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 24 dicembre. Un notiziario che apriamo con una notizia di cronaca, perché l'aeroporto di Ronchi dei Legionari è stato temporaneamente chiuso per circa un'ora questa mattina in seguito a uno sversamento di carburante che è avvenuto nel corso di un rifornimento in aeromobile della compagnia Ryanair diretto a Catania. L'episodio non ha comportato ritardi sugli altri voli. Un malfunzionamento della valvola deputata a rilevare il completamento del rifornimento detta troppo pieno, la causa dello sversamento di 200 litri di carburante sulla pista. L'inconveniente tecnico è capitato durante le operazioni di rifornimento tra l'autocisterna e l'aeromobile della compagnia Ryanair diretto a Catania, con partenza prevista alle 5:50. Al momento della perdita non c'erano passeggeri a bordo. Francesco Mistrini, direttore delle infrastrutture Trieste Airport. Sono inconvenienti tecnici molto frequenti? Sì, diciamo che capitano in tutti gli aeroporti del mondo, di conseguenza quando capitano viene attivato il piano di gestione dell'emergenza aeroportuale con tutte le operazioni di conseguenza. L'aeroporto è rimasto chiuso per un'ora, sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Gorizia e personale aeroportuale. Ci sarà un'inchiesta in merito in questo incidente? No, sono operazioni che capitano in tutti gli aeroporti, quindi di conseguenza sono attività routinarie che vengono gestite, chiaramente avendo in primis la sicurezza delle operazioni è sempre la priorità, quindi di conseguenza sospensione operazioni, ma solo per cauzione e basta. Ritardi influenti sulla giornata ci ce ne sono stati o vengono smaltiti in questo momento? Verranno smaltiti, abbiamo avuto un paio di ritardi su due voli in partenza, chiaramente ci scusiamo con i passeggeri per il disagio che hanno subito in questi giorni di pre-vacanze, ma purtroppo, o comunque per fortuna, all'aeroporto ha sempre la sicurezza come primo obiettivo. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato archiviato in via definitiva il procedimento relativo all'impianto di biometano di Pagnaco. Il progetto era stato definito improcedibile da parte degli uffici della direzione regionale all'inizio di dicembre a causa di alcune carenze nella documentazione. La società proponente tuttavia non si arrende e punta a ripresentare il progetto senza modifiche. La Pagnaco Biometano non si arrende. Dopo la notizia dell'archiviazione definitiva da parte della regione del procedimento relativo all'impianto di biometano di Pagnaco, dalla società consortile che raggruppa alcuni allevatori della zona, filtra la ferma volontà di ripresentare il progetto così com'è. Dopo un primo no del comune e un secondo esito negativo dell'autorizzazione unica regionale per localizzare l'impianto a sud del territorio comunale in zona industriale, i proponenti avevano individuato in estate un'area a nord tra le frazioni di Fontanabona e Modoletto, vicino all'autostrada, tra prati e boschi. Anche questo procedimento si è concluso con l'improcedibilità dell'istanza. La documentazione integrativa trasmessa è risultata incompleta ed è stata la stessa società a chiedere l'archiviazione della pratica. Oltre 5.300 persone Regione avevano sottoscritto una petizione popolare di contrarietà presentata in Consiglio regionale. Per Leonardo Tarossi, vicepresidente del Comitato No Biometano Pagnacco, è una vittoria non solo del Comitato ma di tutti gli abitanti. Tutt'altro che una vittoria, indica la società consortile, mancava il progetto definitivo di allaccio alla rete del gas. Snam non era in grado di fornirlo in tempo, prima di 3 mesi, e così tutto verrà ripresentato in primavera, non appena ottenuto questo documento. Sarebbe già pronto anche un altro documento mancante sulla creazione di una nuova strada che dovrebbe collegare l'impianto. Un progetto da oltre 13 milioni di euro per 300 standard metri cubi di gas immessi in rete, 50 in più di quello iniziale previsto a Pagnacco Sud. Per i proponenti l'impatto sulla viabilità sarebbe di meno di 10 rimorchi agricoli al giorno, numeri contestati dal Comitato per il No, che si è già attivato anche per fornire consulenza ad altri comuni. In primavera potrebbe cambiare anche la legge regionale sulle aree idonee, recependo recenti disposizioni statali di legge. Da sindaco di Pagnacco, Laura Sandruvi, un accorato appello direttamente ai proponenti di ritirarsi e rinunciare a fare ulteriori istanze. È da un anno che stiamo dicendo che Pagnacco non è un comune idoneo a poter ospitare impianti industriali così invasivi, conclude il sindaco, rispetto all'ambiente che ci circonda. Pagnacco, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sul Friuli Venezia Giulia sta soffiando borada moderata sostenuta sulla pianura e sulle zone orientali, forte sulla costa. A Trieste raffiche fino a 110 km orari, ma finora senza particolari disagi. Nella notte si è registrata la caduta di un albero in via Marchesetti e attualmente tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per una serie di richieste di intervento. Proprio nel comune di Trieste si registrano alcune recinzioni di velte, oltre ad alberi caduti nei comuni di Fiumicello, Villa Vicentina, Duina Aurisina e ancora Trieste. Problematiche legate al vento forte nei comuni di Trieste, Cervignano del Friuli, Doberdò del Lago, Monfalcone, Duina Aurisina, Fiumicello, Villa Vicentina. E il comune di Trieste informa che a causa delle condizioni meteorologiche avverse, dalla giornata di oggi fino al miglioramento del tempo, i giardini pubblici recintati saranno chiusi al pubblico. Il giardino di Villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà accessibile unicamente al personale per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici. E vediamo appunto il tempo, cielo coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 7 gradi e vento da est-nord-est a 76 km orari, con raffiche raggiunte fino a 109-110 km orari. Gorizia 8 gradi, Udine 7 gradi, Pordenone 6 gradi e mezzo. A Tolmezzo 4 gradi, a Piancavallo e Forni di Sopra 1 grado, a Tarvisio e Sappada meno 1 grado. Sul Monte Zoncolan meno 6, sul Monte Lussari meno 6 gradi e mezzo. A Grado 7 gradi e mezzo, a Lignano 6 gradi e mezzo. Il vento di bora, che nel pomeriggio potrebbe raggiungere a Trieste anche i 120 km orari, continuerà a soffiare anche nel giorno di Natale. Le temperature cominceranno a risalire soltanto sabato, ma i primi giorni dell'anno riporteranno il freddo. Sentiamo allora le previsioni di Sergio Nordio dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. La nostra regione è interessata in questo momento da correnti da est-nord-est che sono richiamate da una depressione in approfondimento sul Mar Tirreno e dalla presenza di un anticiclone sull'Europa orientale, quindi bora forte sulla costa, sono stati toccati 110 km orari a Trieste, raffiche però anche molto sostenute su tutto il Golfo e fino a Monfalcone, più attenuata invece la bora poi verso la pianura e in genere sulle zone orientali della regione. È arrivata anche la neve, montagna, nevicate per un momento deboli o moderate che hanno interessato fino al fondovalle nel Tarvisiano. E nelle prossime ore attendiamo ancora piogge sparse sulla pianura, sulla costa, ancora una neve moderata insomma in montagna, ancora un po' di centimetri attesi nel corso del pomeriggio e continuerà a soffiare bora con raffiche che potrebbero toccare a Trieste in genere sulla parte orientale della costa i 120 km orari. Fino a quando? Le condizioni sembrano permanere tutto sommato simili per diciamo gran parte della giornata di oggi e per quanto riguarda la bora anche per la buona parte della giornata di domani ci sarà probabilmente una lieve attenuazione dell'intensità, ma ci aspettiamo raffiche a Trieste ancora sui 100-110 km orari per la giornata di Natale, per domani, e però con un tempo in miglioramento dovremo cominciare a vedere delle schiarite, un po' più di sole, quindi non ci saranno precipitazioni domani. E dopo Natale? La tendenza è un ulteriore miglioramento, diciamo che tornerà il sole, tempo stabile, soleggiato, previsto per Santo Stefano e per buona parte insomma dei giorni successivi fino a fine anno. Le temperature in lieve calo con questo episodio di bora però torneranno già a risalire nella giornata di sabato e quando in quota appunto arriverà una massa d'aria secca e più mite quindi avremo anche un aumento della quota dello zero termico abbastanza significativa. Si tratterà ancora questa di una fase transitoria, appunto tra sabato e domenica, poi le temperature torneranno lievemente a calare all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà più freddo i primi giorni del prossimo anno. 96 persone identificate e 38 veicoli controllati sono il bilancio del servizio straordinario di controllo svolto ieri sera nelle aree maggiormente interessate da reati predatori dai carabinieri della Compagnia di Gorizia, con il supporto del 14° nucleo elicotteri di Belluno per prevenire i furti in abitazione. Il servizio ha previsto l'impiego di un elicottero AB-412EP, velivolo multiruolo in dotazione all'arma dei carabinieri in grado di operare sia di giorno che di notte. Il velivolo ha effettuato sorvoli mirati sulle zone residenziali, consentendo un'azione di osservazione dall'alto integrata con i controlli a terra svolti dalle pattuglie delle stazioni carabinieri e dalla sezione radiomobile della Compagnia di Gorizia. Nel quadro delle iniziative di prevenzione, i carabinieri ricordano l'importanza di adottare alcune semplici misure per ridurre il rischio di furti in abitazione, soprattutto durante le assenze legate alle festività. È fondamentale assicurarsi che porte e finestre siano sempre chiuse correttamente, evitare di lasciare segni evidenti di abitazioni incustodite e prestare attenzione a movimenti o presenze sospette nei pressi delle case. Un valido supporto alla sicurezza è rappresentato poi dall'installazione di sistemi di videosorveglianza e di allarme, preferibilmente collegati al 112. Anche piccoli accorgimenti come mantenere un'adeguata illuminazione esterna o informare una persona di fiducia in caso di assenza prolungata contribuiscono in modo concreto a prevenire intrusioni, così come la tempestiva segnalazione alle forze dell'ordine di qualsiasi situazione anomala. Un incendio ha distrutto intorno alle 8.30 di questa mattina un furgone parcheggiato vicino a un'abitazione a Codroipo in via Montenero. Diverse le telefonate giunte ai vigili del fuoco che sono intervenuti con il distaccamento di Codroipo e il supporto di quello di San Vito al Tagliamento e hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme che stavano lambendo il contatore del gas esterno allo stabile. I soccorritori sono intervenuti da una parte per proteggere il contatore e la tubatura del gas, dall'altra per spegnere l'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento. Nessuna persona è stata coinvolta e il fumo non ha raggiunto l'abitazione. Rubava materiale per l'edilizia e utensili custoditi nel magazzino dell'azienda dove lavorava per rivenderli poi sulle piattaforme online, ma a scoprire e a denunciare un 58enne della Bassa Friulana sono stati i carabinieri della stazione di Latisana. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata a novembre dai responsabili della società dopo aver scoperto una serie di ammanchi durante un inventario delle attrezzature e degli utensili aziendali custoditi nel proprio magazzino. La successiva perquisizione domiciliare delegata dall'autorità giudiziaria di Udine ha poi confermato il coinvolgimento dell'ex dipendente, consentendo di trovare nella sua abitazione l'area furtiva per un valore complessivo di 5.000 euro che è stata restituita ai legittimi proprietari. L'uomo era già noto ai carabinieri proprio per una vicenda simile verificatasi a marzo scorso. In quella circostanza, sempre su piattaforme online, aveva messo in vendita una bicicletta rubata il mese precedente alla Tisana. Anche allora, come adesso, una perquisizione domiciliare consentì di rinvenire il bene rubato che è stato restituito al proprietario. La polizia locale di Trieste ha sequestrato oltre 15 kg di prodotti ittici considerati non idonei alla vendita. Durante l'ispezione in un esercizio commerciale gli agenti hanno rilevato violazioni in materia di sicurezza alimentare. Il prodotto ittico è risultato privo delle informazioni obbligatorie sulla tracciabilità, rendendolo di fatto potenzialmente rischioso e non vendibile al pubblico. Al titolare dell'attività è stata applicata anche una sanzione amministrativa. Il 24 dicembre è tradizionalmente la giornata in cui si completano gli acquisti non solo per i ritardatari del regalo da mettere sotto l'albero in attesa della mezzanotte, ma anche dei prodotti alimentari per la preparazione del cenone della vigilia e del pranzo di Natale tra le mura domestiche. Ho acquistato un musetto e del patanegra. Si fa la coda in macelleria in centro a Pordenone per gli ultimi acquisti per il pranzo di Natale. Sul piatto vince la tradizione per la festa della famiglia. Tortellini brodo con il lesso e poi il cotechino col purè, le patate, il radicchio e per finire il panettone come da tradizione. Chi è la cuoca? Sono io. Lo faccio volentieri in questo giorno perché la famiglia si riunisce. È la festa della famiglia. Il pranzo di Natale a casa o fuori? E a casa di un'amica, con la sua mamma anziana che ha bisogno di compagnia. Speriamo un buon Natale, con più salute. Ecco. per tutti quanti. Pranzo di Natale a casa o ristorante? In ristorante, perché nessuno è abbastanza bravo da fare un buon pranzo di Natale per la famiglia e quindi facciamo così come da un po' di tempo. Ultimi acquisti anche nella storica gastronomia del corso. Che cosa è venuto a acquistare? Baccalà, mantecato, baccalà alla vicentina, le verdure, il musetto. Siccome chiude, tra altre cose, anche festeggiamo il Natale alla grande, insomma. Noi non facciamo cose sofisticate, tradizione e soprattutto artigianalità, e quindi bene, così. Il suo augurio per questo Natale? Beh, l'augurio è che la gente stia meglio che può, perché la salute è più importantissima, e soprattutto, insomma, che ci sia un anno più tranquillo, insomma, sotto il profilo delle guerre. È facile dirlo, però è una cosa che si sente. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il periodo delle feste sta registrando negli ultimi anni un costante incremento dei turisti, soprattutto a Trieste. Siamo andati quindi a verificare la situazione delle presenze negli alberghi che a Capodanno registreranno il tutto esaurito. Una conferma, quella del tutto esaurito a Capodanno a Trieste. Prenotazioni degli alberghi al 95% in vista della fine dell'anno. Ma buona anche la situazione a Natale. Maurizio Giudici, presidente Federalberghi Trieste. Con il weekend prima di Capodanno arriviamo addirittura a toccare un 80% in incremento, e Capodanno, la notte del 31, possiamo dire che registriamo già un sold out. Il complesso ricettivo triestino, alberghiero ma non solo, parliamo anche di appartamenti, B&B, affittacamere, campeggi e ostelli, registra 2.400 strutture per più di 14.000 posti letto. Sono 71 le strutture alberghiere con quasi 4.000 posti letto. Sold out verso la fine dell'anno, confermato dalle varie strutture. Per Natale siamo effettivamente quasi pieni, siamo sul 75% di occupazione. Prenotazioni in arrivo, per adesso sono una quindicina di arrivi, mentre invece per Capodanno siamo già pieni. Obiettivo quello di destagionalizzare il flusso turistico, non soltanto a dicembre, che ha fatto registrare numeri importanti anche nel Ponte dell'Immacolata, ma nei mesi che vanno dal 7 gennaio fino a marzo, prima della risalita di Pasqua. L'opportunità riguarda il sistema congressuale. L'attività di Federalberghi, ma non solo di Federalberghi, di tutto il comparto e della pubblica amministrazione, è quella di operare sui mesi di bassa stagione, magari incentivando e lavorando con l'attività congressuale. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E oggi è la vigilia di Natale e in ogni diocesi si terranno questa sera le messe che celebreranno la Natività. A Trieste alle 23.30 il Vescovo Enrico Trevisi presiederà in cattedrale l'ufficio delle letture e la messa della notte nella solennità della Natività del Signore. A Gorizia alle 23.45 il racconto animato Un presepe a dimensione umana, al quale seguirà alle 24 la messa presieduta dall'arcivescovo Carlo Maria Redaelli. Animano la Cappella Metropolitana e il coro Genitori Figli. Nella cattedrale di Udine alle 24 l'arcivescovo Riccardo Lamba presiderà la celebrazione eucaristica in notte nella solennità del Natale. Il vescovo di Concordia Pordenone Giuseppe Pellegrini celebrerà alle 20.30 la messa alla via di Natale, alle 21.30 al Coro di Aviano e alle 23 all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Nel Duomo di San Marco la messa della notte si svolgerà alle 23. Alle 22 la veglia di preghiera, sospesa la messa delle 20 nella Chiesa del Cristo. È un Natale che per molte persone, sia locali sia stranieri, è sinonimo di solitudine. È recente la notizia di due uomini originari del Pakistan morti cercando di riscaldarsi in uno stabile abbandonato. Parte da qui la riflessione di Natale ai nostri microfoni dell'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba. Le nostre comunità, anche attraverso l'opera del Centro Caritas, sono molto presenti e sono accoglienti, ci sono tante iniziative che sono già in atto. Ma certamente questi episodi più recenti stimolano tutti quanti noi a essere sempre attenti e vigilanti per tutte le situazioni di fragilità che comunque ci sono e che sfuggono all'immediato accompagnamento. E quindi un invito a tutte le comunità di avere sempre uno sguardo attento sul territorio per cogliere queste necessità. Finito l'anno del Giubileo, se ne apre un altro dedicato al ricordo dei 50 anni dal terremoto. Il Giubileo della speranza ci aiuta a continuare a sperare, così come dopo l'esperienza terribile del terremoto del 1976, le popolazioni del Friuli furono aiutati a sperare proprio attraverso la solidarietà sia qui a livello locale ma anche a livello nazionale con le altre diocesi che si strinsero subito intorno, ma anche con l'aiuto di tanti friulani che da varie parti del mondo aiutarono materialmente nella ricostruzione. Ci sono diverse iniziative che saranno sviluppate nel mese di marzo attraverso una riflessione fatta anche con i catechisti su quello che ha significato il terremoto per una nuova forma di evangelizzazione. E poi successivamente un discorso più sulle comunità nel mese di marzo. Poi a maggio avremo una riflessione a 50 anni anche dall'istituzione della Caritas diocesana. Avremo anche ospite il Cardinal Matteo Maria Zuppi per una celebrazione con tutti i vescovi delle diocesi in vicinanza, nella prima domenica di maggio, in vicinanza della celebrazione che anche le autorità civili faranno i primi di maggio in corrispondenza del 6 maggio. Andrea Vardanega, TGR, Friuli Venezia Giulia. Altri appuntamenti per questa vigilia di Natale: il Circolo Culturale Corno promuove nella vigilia di Natale un concerto nella chiesa nuova di Sant'Andrate della Corale Fogolar, diretta dal maestro Boscutti. Alle 21.30 il concerto per organo e coro proporrà brani dei noti compositori contemporanei Beppi De Marzi, Marco Maniero e altri brani popolari. Al termine, alle 22, nella stessa chiesa, sarà celebrata la messa della veglia natalizia, la cui liturgia sarà animata dalla medesima corale Fogolar. A San Giorgio di Nogaro, intenso e magico intervento del coro Le Colonne di Castion di Strada per la tradizionale cerimonia di accensione del presepe di Chiarisacco. Quello di quest'anno è il 38esimo presepio che il Circolo Culturale di Chiarisacco allestisce sul laghetto comunale lungo la strada regionale Trieste-Venezia, su ideazione e direzione artistica dell'architetto Paolo Morettin. L'allestimento vuole rendere omaggio alle risorgive, alle 17 in Piazza della Fontana. Ricordiamo che la comunità religiosa serbo-ortodossa festeggia oggi la ricorrenza del patrono San Spiridione Taumaturgo con il Vespro Solenne in programma a Trieste alle 17. Ed è tutto pronto al Lago di Cornino per la magia natalizia del presepe subacqueo che questa sera si rinnoverà per la 51esima volta e che richiama centinaia di spettatori da tutto il Friuli Venezia Giulia ma anche da oltre confine. Intorno al lago ci saranno 400 metri di catene luminose a LED. Il presepe sarà composto da 21 statue che attorneranno l'allestimento centrale a stella con la Natività. 50 ulteriori stelle si illumineranno sincronicamente al momento dell'emersione del Bambin Gesù. L'appuntamento è per le 20. Il fascino del Natale torna a risplendere su Valle di Sofumbergo, il borgo del comune di Faedis, noto come Balcone del Friuli. Anche quest'anno la Pro Loco rinnoverà l'appuntamento con la tradizionale notte di Natale sul Balcone del Friuli. Il via alle 21 con l'apertura della sede della Pro Loco e del bar. Alle 21.30 la messa della vigilia con l'accompagnamento musicale del gruppo Sax di Sedegliano, diretto dal maestro Angelo Di Giorgio. Al termine della funzione la festa si sposterà nella piazzetta antistante, dove a partire dalle 22.30 la Pro Loco accoglierà tutti i presenti con vin brulè, panettone e castagne serviti in piazza. Nel calendario di Nativitas Friuli Venezia Giulia 2025, due celebrazioni del 24 dicembre in provincia di Udine. Alle 22 nel santuario di Sant'Antonio a Gemona del Friuli e alle 22.30 nella pieve di San Vincenzo a Porpetto. In provincia di Trieste Nativitas offre l'appuntamento della messa della vigilia in programma a mezzanotte nella chiesa parrocchiale di San Pio X. La vigilia di Natale in provincia di Gorizia verrà animata da numerose celebrazioni liturgiche con corredo corale a cura delle compagnie locali. Si inizierà nella chiesa di Capriva del Friuli alle 23, per proseguire poi alle 23.30 nella chiesa di San Lorenzo Esontino e nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Staranzano. Alle 23.45 si canterà nella chiesa dei Cappuccini a Gorizia e nella chiesa di San Giorgio di Lucinico. In provincia di Pordenone saranno 4 le messe della Vigilia di Natale inserite nel programma di Nativitas. Si inizierà alle 21 nella chiesa di Poffabro, per proseguire poi alle 22 in quella di Rauscedo. L'attesa del Natale avrà un corredo musicale anche nel Duomo di San Vito al Tagliamento, con inizio alle 22.30. Alle 23 la musica corale accompagnerà la celebrazione nella chiesa di Fiume Veneto. E prima di concludere vi raccontiamo una bella storia di Natale, quella di Madi Sissocoppi, vo della Pallacanestro Trieste, un atleta unico in campo e fuori. La sua storia questa mattina. Buongiorno Regione. 2,10 metri di uomo, facile sentirsi piccoli, eppure la sua grandezza non sta nell'altezza quanto nelle parole, nei gesti, nei pensieri. Non fa che parlarci di gratitudine, ma di Sissoko Pivot della Pallacanestro Trieste, infortunato al ginocchio, fermo sul campo, ci accontenta, fa due palleggi per noi e poi si siede, apre la gallery del suo telefonino dove c'è solo Africa. Ci mostra orgoglioso il villaggio da cui viene, Tangafoya in Mali, talmente piccolo da non comparire neppure su Google Maps. Lì, attraverso la Madi Sissoko Foundation, un'organizzazione no profit da lui fondata, ha finanziato la realizzazione della prima scuola del suo villaggio. C'è elettricità, il primo pozzo d'acqua corrente, ha acquistato macchinari agricoli e poi ha costruito il primissimo ospedale. Quando ho avuto la possibilità di andare in America, subito mi sono detto: ok Madi, tu lasci il tuo villaggio, tutti ti stanno guardando, quindi appena potrai dovrai restituire il bene che hai ricevuto e assolutamente devi partire dalla scuola, questo mi sono detto. Il più piccolo di 10 fratelli, Madi è cresciuto senza acqua corrente e per andare a scuola ogni giorno macinava chilometri a piedi. La scuola più piccola distava a 45 minuti a piedi da casa, la più grande un'ora e mezza. Chi era fortunato andava in bici. Questa era la sua vita, ma non era il suo destino, perché Madi, che a 15 anni inizia a giocare a basket, per caso entra in contatto con Michael Clayton, americano, arrivato per una missione medica umanitaria in Africa, lo osserva giocare, nota le potenzialità, lo porta con sé negli Stati Uniti, dove entra alla Wasatch Academy a Mount Pleasant, Utah. Se dovessi andare indietro nel tempo, ai miei 15 anni, la vita che sto vivendo ora, non potevo neppure immaginarla. Mi sento davvero un miracolato. Sono così grato alla mia famiglia che mi ha lasciato partire in America quando ero solo un ragazzino. Non posso che dire grazie. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 12.57 minuti finisce qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zanni e Giorgio Beers, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Isabella Parutto. Ed è tutto, grazie ancora per l'attenzione, al prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona vigilia di Natale. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.